Questa sera abbiamo, diciamo, un poeta, Max Ponte, che poi andrà in diretta. Prima ascolteremo alcuni suoi brani e prima ancora vi farò ascoltare alcuni pezzi sonori del gruppo Martiria. Il gruppo Martiria è un gruppo che io ho conosciuto per caso, anche se il caso, diciamo, non esiste, è guidato da Marco Cappelli di Progetto Babele, in quale mi ha inviato due CD interessantissimi. Uno è The Eternal Soul e sono tutti testi inglesi, e poi un secondo di cui leggeremo e ascolteremo un brano magari più tardi. Quindi io direi, pregherei la regia di mandare un pezzo così che decide magari il nostro amico Roberto di Martiria, segnalandovi anche questa opportunità che ci sarà presto a Radio Alma, sarà appunto quella di ascoltare dei concerti in diretta e nello spazio Espace D. Quindi tutto, come vedete, è collegato, non esiste il programma di poesia, non esiste il programma di letteratura, non esiste il programma di musica, ma tutto è collegato e quindi questa tela si sta espandendo, e buon per tutti i nostri amici poeti che ci ascoltano. Un saluto a Giulietta e Genti, anche oggi non sono qua con noi. Un ringraziamento particolare al nostro direttore Giava, che è oggi in sala regia, e a Deda. Il contraccambio, il saluto. Ah, No, non c'è ancora non Deda. c'è Non Deda. c'è ancora Deda. È una. Saluteremo tra poco questa nuova ospite che tra un po' Ah, presenteremo. bene, bene, ok, perfetto. La facciamo venire qua ai microfoni, così mi tiene compagnia. Giava, sì, grazie, grazie, perché se non ci fosse Giava, cosa sarebbe la Radio Alma, perlomeno la parte italiana? E benissimo. Allora, il nostro ospite è Max Ponte, che ho conosciuto grazie all'amico Santoro, che saluto. E poi magari più tardi farò i saluti per altre persone che sono sempre dietro alla tela sonora, non si manifestano mai, ma sono i veri protagonisti, se vogliamo. Allora, Max, questa sera ascolteremo alcuni pezzi, alcuni brani, e vi leggo alcune novità sul suo lavoro, perché continuamente si muove, si modifica, cambia idea e fa delle cose molto interessanti. Allora, intanto i brani, spiegarvi cosa sono un'anteprima della raccolta Eyeliner, che uscirà nel corso di quest'anno, non dice quando, ed è promossa da Poesia Totale. Ringrazio i collaboratori di Poesia Totale. Rassegna biennale di poesia di ricerca, quindi poesiatotale.eu per chi volesse andare in internet. La raccolta conterrà anche alcune tavole di poesia visiva e forse un CD allegato, quindi ci sono ancora tanti punti interrogativi. A febbraio, quindi fra pochissimo, un lavoro diverso. Uscirà una sua poesia ad hoc nell'antologia Pollocchiana, Poeti italiani contemporanei per la nuova pittura americana, edita da Torino Poesia, e con poeti come Balestrini, Cepollaro e anche tanti altri, quindi li salutiamo tutti. Uscirà sempre nel 2009 la seconda edizione della sua traduzione di Il pianeta blu Myosotis di Anna Raffaella Farao. Una traduzione che si è rivelata un lavoro di scrittura poetica, vista l'originalità del testo. Quindi non ci sarà poi tregua sul Poetry Slam, continueranno infatti a Torino le sessioni con un vero e proprio gruppo di slammers senza limiti di età, uno a più di 70 anni, quindi forza e coraggio, c'è posto per tutti, per animare la scena cittadina. Diciamo che Max ha promesso di inviarci i suoi libri, quindi oggi ascoltiamo i suoi pezzi, i suoi brani, poi chissà lo chiameremo una seconda volta per approfondire. Max è nato nel 1977, quindi giovanissimo, scrittore e poeta, impegnato anche in ambito artistico, vive e lavora a Torino. Di formazione filosofica, svolge varie attività, fra cui quella giornalistica. Dal 1999 progetta e coordina atelier di scrittura. Nel 2001 ha pubblicato Blood in Vienna, un ciclo di micro racconti in cui la morte di un animale libera energie sopite, rappresentate con brani di scrittura automatica, criptata e visiva. Dal 2001 al 2003 partecipa a varie rassegne e festival. Partecipa inoltre a Poetry Slam nazionali e internazionali. Nel 2004 è curatore della mostra Geiger, I maestri della poesia visuale, con opere di Nanni Balestrini, Arrigo, Laura Totino, Carla Bertola e Alberto Vitacchio. Li salutiamo tutti e continuiamo. I lavori di Max sono stati trasmessi dai media tra cui Radio Rai e il canale TV Sky. Attualmente impegnato nella realizzazione di progetti poetici, continua a sottolineare la sua predilezione per il succo di ciliegia, le giraffe e lo zucchero di canna mascobado. Allora, senti, hai voglia di mettere un pezzo musicale, così chiamiamo Max? Java? Lo vuoi chiamare al telefono? Direi di sì. Dai. Che dice, meglio, facciamolo. No? Dai. Abbiamo una diretta. Caro Max. Ciao. Caro, come stai? Bene. Senti qua, io avevo promesso di mandare i tuoi pezzi, ma è successo qualcosa sulla USB, non riesco a mandarli in onda. Quindi abbiamo deciso di chiamarti, infatti prima del solito. E quindi ce li racconterai te, magari ce li leggi te in diretta, che ne dici? Se vuoi ti leggo qualcosa io. Ecco lì, abbiamo trovato il sistema. Senti, io ho già letto un pochino quello che fai tu, ma così a grandi linee, per presentarti ai nostri amici radioascoltatori, e poi ti lasciavo così l'onore di presentarti, perché io ho visto sul tuo sito che ci sono un sacco di cose. Ho stampato un po' esperienze diverse. Ho stampato questioni di arte contemporanea. Sì. Ci picchia. Xlam, selezione Xlam, grande poetry slam di Natale. Insomma, fai tantissime cose. Allora, sì. Decidi tu come. Lo spazio è tuo per oggi, quindi decidi tu come. Dimmi solo i tempi più o meno che. Abbiamo 40 minuti. 40 minuti. Beh, sì, 30 minuti, poi mandiamo una musica e poi ci salutiamo, sì. Quindi magari leggi. Sì, sì, anche meno, non c'è problema. Tanto per intervallarci. Poi abbiamo un sacco di fanciulle in radio che non hanno voglia di venire qua ai microfoni, ma ti ascoltano. Che non hanno voglia di venire ai microfoni. Perché hanno paura, perché non ti conoscono. Poi magari quando hanno sentito quello che fai, quello, allora forse poi si avvicinano. Allora. Praticheranno col tempo. Vai poeta. Internazionale, dimmi, raccontami. Dunque, direttamente così, sì. Di brutto ti posso raccontare un mucchio di cose, nel senso così, prima di aspettare la tua telefonata appunto meditavo un po' sul significato del fare poesia, come sì. Ti scrivevo anche. Uh-huh. È una cosa insomma che ognuno penso si chieda prima o poi, anche perché la poesia come tante altre cose o diciamo attività come quella filosofica appaiono completamente inutili, come cosa serve la poesia, insomma non si vende, non ha un ruolo nella società, almeno i poeti già da tempo, gli intellettuali non hanno più un ruolo, uh-huh. E quindi c'è da chiedersi, porsi l'interrogativo, chiaramente non ho una risposta precisa, uh-huh. A che cosa serve la poesia, insomma. Quello che è chiaro è che insomma è una necessità un po' di molte persone, per alcuni anche troppe, io non penso che siano mai troppe comunque, e quindi sicuramente rappresenta una, diciamo, un bisogno interno e anche un rapporto che tutti vogliono avere con la parola, sia come scritta ma sia corporea, mm-hmm. In questo caso la poesia interroga anche l'arte contemporanea, oppure altre discipline, per così dire, più musicali e teatrali, insomma. La mia visione è quella di una poesia totale, nel senso che possa in qualche modo coinvolgere anche l'arte contemporanea e possa in qualche modo diventare una ricerca verbo-visuale. Uh-huh. C'è una tendenza in Italia che parte dalle avanguardie che riguarda queste ricerche verbo-visuali. Mm-hmm. Quindi si tratta di non soltanto di ascoltare e leggere la poesia su un foglio e vederla scritta lineare, ma si tratta anche di vederla e quindi libera sulla pagina, stampato comunque nella sua dimensione tridimensionale, e quindi esperire qualcosa attraverso gli altri sensi che non sono prettamente quelli della vista. Ottimo. Quindi, ieri l'idea di base insomma è quella di riprendere la vitalità della poesia da dove questa insomma diciamo è finita in qualche modo nelle ultime esperienze d'avanguardia, in qualche modo. Ti faccio già una domanda, se posso. Prego. Ieri abbiamo parlato con David Giannoni di Maelstrom, che sta organizzando qua a Bruxelles un festival al quale sei invitato, ovviamente. Abbiamo parlato di ipnosi e abbiamo parlato di come le parole possono aiutare quando vengono lette, anche leggendo una poesia di un altro scrittore, non la propria poesia, come queste parole effettivamente acquistino un significato a volte diverso e quindi si arricchiscono in base al lettore. Vi spiego meglio, è il lettore che leggendo sente, ha delle emozioni, sente delle energie. E quindi leggendo la poesia, utilizzando le parole scritte su questo pezzo di carta, va come in trance, in ipnosi, e ne esce fuori un capolavoro, un'opera d'arte diversa da quello che forse. Assolutamente, questo rientra assolutamente in un discorso, diciamo così, di interazione col testo, ma è proprio quello che diciamo così, alcune esperienze, per così dire, non prettamente tradizionali vogliono fare. Vogliono far sì che il lettore o comunque lo spettatore diventi parte dello stesso lavoro, insomma. L'idea di una poesia totale o comunque di un'arte totale in senso, per così dire, wagneriano, è quello di coinvolgere tutti in questa attività. Lo slam, che è un esempio di poesia orale che io pratico, insomma, da anni, diciamo va in questa direzione, perché il pubblico ne è coinvolto nel valutare la poesia che viene letta, e la stessa partecipazione allo slam è una partecipazione molto libera nei caffè di Parigini e in altre città, per cui uno si può presentare normalmente e candidarsi in serata senza fare particolari, diciamo così, concorsi o pratiche troppo accademiche. Quindi l'ipnosi di cui tu mi parli è una sorta di partecipazione estetica alla produzione poetica, e quindi non è altro che il miglior modo di vedere la poesia, la quale non deve essere solo un prodotto individualistico, autoreferenziale, altrimenti veramente i poeti possono chiudersi nella loro stanzino e non mi sembra una grande riuscita. Infatti si parlava proprio della poesia inizio Novecento, l'ermetico, no? Poeta ermetico, come invece adesso la poesia voglia significare, perché è un mezzo per esprimere anche idee, lanciare messaggi. E quindi un po' come il vecchio pamphlet, no? Quindi assolutamente sì. Senti, invece, devi aggiungere qualcosa? No. Io ho visto la tua foto con i vincitori dello slam di poesia in Val 2008. Da sinistra Laurent Léon, Max Ponte, poi Simon Renaud e Giovan Bartolo Botta sotto i riflettori. Allora, dove vi trovavate? Ci trovavamo in quella, diciamo, in un piccolo, diciamo così, paesino che si chiama Giaveno, che sta sulla Torino, diciamo così, a pochi chilometri da Torino, e si trova a pochi passi anche a pochi chilometri dal confine, insomma. Torino, diciamo, dista relativamente poco dal confine francese, un'ora in macchina, e quindi le influenze e, diciamo, i rapporti con la Francia sono intensi, almeno per quanto riguarda le attività culturali o intellettuali. In quel caso lì si trattava di uno slam transalpino, che è una delle formule che ho trovato per proporre il Poetry Slam, e si trattava di una gara fra circa una metà poeti italiani e metà poeti francesi. Adesso non ricordo il numero, ma dovevano essere più o meno 5 italiani e 5 francesi, linea di massima. E con un vincitore insomma, che poi si è rivelato essere doppio, uno francese e uno italiano. Esatto, perché erano a pari merito. Senti, poi ho visto anche il canto della chiusa, un viaggio che hai fatto vicino a Amsterdam. No, il canto della chiusa è un viaggio che ho fatto in Borgogna, andando a Parigi, e avevamo degli amici in quella zona, e ho scoperto una chiusa, e quindi con un tanto di guardiano di chiusa, insomma, questa parola poi tradotta in italiano che è clusière, che è tra l'altro guardiano donna di chiusa. Infatti, Marie France, no? Infatti, sì, ed è un mestiere assolutamente interessante dal punto di vista così delle suggestioni letterarie che crea, insomma. Lo sai che qua a Bruxelles ci sono? Sì, so che ci sono non so se ci sono dei guardiani di chiusa. Sì, ci sono. Sì, ci sono. Adesso non so fisicamente se siano lì. Comunque la chiusa viene. Le chiuse ci sono. Ci sono e vengono utilizzate. Cioè, quindi c'è il modo di visitare lungo il canale con una barca apposita. Ti fanno fare un giro ed è, come dici te, interessante vedere il paesaggio dall'acqua, muovendosi con un ritmo sempre uguale, no? Molto ondeggiante e anche lento, e quindi osservare qual era poi, cosa si svolgeva lungo le rive, lungo gli argini, perché c'è tutta un'attività, ci sono ancora i vecchi depositi di grano, di semenze, ci sono degli impianti industriali, ci sono vecchi impianti dismessi che sono poi stati così rinnovati, adibiti a nuove costruzioni per accogliere uffici. Ed è interessante. Sì, interessante. In quel caso i colori anche. Anche per il fatto che non c'era nessun sistema diciamo così meccanizzato, elettronico, automatico lì in questa chiusa in Borgogna era tutto manuale, è tutto manuale ancora adesso, quindi quella cosa che mi ha lasciato un po' così diciamo così colpito è questo fatto. E poi diciamo sono dei meccanismi un po' rari qui in Italia dove non abbiamo sfruttato il sistema fluviale, quindi è vero, infatti infatti questo è interessante quello che dice, perché spiega anche un po' il carattere degli abitanti, no? La lentezza tipica di questi luoghi dovuta proprio al fatto che c'è un contatto con l'acqua diverso, che richiede una lentezza diversa, mentre il contatto sulla strada, quindi con le ruote, il treno, è tutta un'altra cosa. Beh, sì. No, ma c'è una vita molto molto attiva vicino all'acqua. Senti, invece, che voglia di leggerci qualcosa? Cioè, i testi che io devo mandare, tu riesci a leggerli? Assolutamente sì, dai. Nonostante la mia voce sia un po' presa dalla tosse, però cercherò di interpretarla nella maniera più decente. Una di queste testi, insomma, che sarà contenuto nella mia raccolta che si intitola Eyeliner, che uscirà nel corso di quest'anno, è dedicato a un periodo che dell'antichità che mi ha sempre affascinato. Durante i miei esami di storia greca non è che fossi particolarmente entusiasta della situazione, però è un periodo particolare della storia di Creta mi ha sempre affascinato, che è quello dell'età minoica. Infatti. Fondamentalmente, quindi mi è venuto spontaneo di interpretarla in maniera poetica a modo mio, e quindi leggerò questa età minoica. D'accordo. L'età minoica. Ora che ho scoperto l'estetica minoica e la scimmia azzurra, sono fermamente risolto a far reagire i miei liquidi con i tuoi. Tale cromostoria consisterà nel fatto che, nella piena applicazione dei principi della stechiometria, della termodinamica e dell'articolo 43 del contratto collettivo nazionale, precipiterò inevitabilmente dentro di te. Questo, tuttavia, superato lo shock gravitazionale, mi permetterà di esperire la tua civiltà palaziale e le tue composizioni esotiche e fluviali. Ora che ho scoperto l'estetica minoica e la scimmia azzurra, sono fermamente risolto ad inoltrarmi nell'ombra sinuosa dei tuoi arti, articolando articoli e monosillabi ruffiani, collaudando ascensori in lattice. In assenza di pressione atmosferica, ci rotoleremo su pareti ornate di gigli e nature da sballo, inietteremo profumi con dominanti ambrate. E quindi è finita così questa. Senti, io ho una visione. Cos'è? Una dichiarazione che fai a un'amica, a una donna? Assolutamente no, assolutamente no, sarebbe troppo così semplice la cosa. Beh, però i poeti sono molto più complicati. No, beh, però sai com'è. Sì, tendenzialmente no, ma è un'interpretazione di quell'età, chiaramente in senso diciamo così erotico più che altro, sì, amoroso, ma soprattutto la cosa diciamo così è una lettura così del periodo in senso così un po' edonistico. Assolutamente. Senti, ma i poeti hanno un ego fortissimo oppure no? Sì, hanno un ego fortissimo, non posso esprimere questa mia opinione avendone frequentati tanti e vedendone tanti anche nel corso di festival o comunque contattandoli per Poesia Totale, che è questa rassegna che così cerco di condurre qui a Torino. I poeti hanno un ego fortissimo, peggiore di quello degli artisti. Ok. E quindi in teoria non fanno così schifo come gli artisti. gli artisti sono spesso sono molto più diciamo così, meno sani dei poeti. Il poeta però anche lui rischia, come ti dicevo precedentemente, questo sorta di autoreferenzialità, mm-hmm. E quindi apprezzo coloro che sanno in qualche modo stabilire dei rapporti umani decenti. Ottimo. Che non è così evidente. Non è evidente, soprattutto per te che sei più giovane, che fai parte di un'altra generazione. Assolutamente no, soprattutto anche, diciamo così, discutendo con poeti affermati e che magari hanno comunque delle idee che potrebbero esprimere, o comunque che sarebbe opportuno che loro esprimessero anche per loro stessi, mi trovo a dover spesso così avere dei rapporti molto freddi, anche dove non ce ne sarebbe particolare motivo, io trovo, soprattutto per il lavoro che fanno, ecco. Senti, io adesso faccio un salto. Spring Notes, arriverà un grande Vesuvio Party. Tu qui definisci con una conclusione che tu dici hai provvisoriamente tratto dopo osservazioni, che il mondo della poesia rispecchia microcosmicamente, sì, l'orrendo macrocosmo che la nostra Italia, sì, è nella sua allegra spazzatura. Esatto. Allora, vogliamo spiegare. C'è anche da dire, nel senso che io non avendo esternamente, quando un lettore si avvicina alla letteratura o qualsiasi forma di arte, idealizza molto, perché in qualche modo ne è un fruitore esterno, come quando uno guarda un film e spera che veramente il mondo di Amelie sia così ed esista fuori dalla casa sua. All'interno in qualche modo nella retroscena della letteratura, nella poesia, comunque è veramente un microcosmo che tra l'altro non ha una valenza economica, diciamo, interessante, e quindi diciamo vive di tutta una serie di speranze, probabilmente così velleitarie. E però io penso che la scena, quando si descrive una scena poetica nazionale, che in questo caso è la scena poetica italiana, la scena non fa altro che rispecchiare o comunque inserirsi in un quadro storico, in un tessuto storico, diciamo, senza stare a citare filosofi, antropologi o Heidegger, insomma è evidente che la poesia italiana oggi, diciamo così, riflette tutta una serie di speranze, di situazioni che in Italia ci sono. E non penso che i poeti siano migliori in senso umano rispetto ad altri individui. Semplicemente forse hanno nei piccoli momenti della loro vita la capacità di dire delle cose che gli altri non dicono, e quindi di esprimere delle qualcosa di ineffabile che fa sì che gli altri diciamo possano entrare in un mondo diverso. Però a livello, diciamo, prettamente così sociale o antropologico, sicuramente il mondo della poesia non è meglio di tutti gli altri, ecco. Insomma, ma quest'Italia, ma un po' di speranza ce l'abbiamo? Ma penso di sì, essendo un paese, leggevo su Liberation qualche mese fa un'intervista a Marco Tullio Giordana, il quale parlava del suo paese, cioè dell'Italia, e faceva una lettura, insomma, assolutamente interessante, dicendo che l'Italia è un paese fondamentalmente, più che, diciamo così, disastrato, mafioso, un paese anarchico, in cui ognuno pensa al proprio orticello, eccetera, eccetera, e quindi tutti sono un po' come delle schegge che viaggiano, diciamo, per i propri interessi, non incontrandosi mai. Il che è assolutamente vero, in ogni settore italiano è così, basti pensare al mondo della moda, ad esempio, no? Non c'è una camera della moda che funzioni in Italia, cioè ogni stilista fa le sue cose. Io penso, la speranza sicuramente c'è, poi l'Italia è sicuramente un paese ricco di risorse, ma perché si possa, diciamo così, fare un salto in avanti, bisogna guardare indietro, guardare la situazione in cui si è, e quindi avere anche il coraggio ogni tanto di, magari soprattutto nel milieu degli intellettuali, avere il coraggio magari di dire qualcosa, forse non farebbe male, ecco. Senti, tu affermi poi che tutti quelli che si fermano alle celebrazioni di loro stessi, dei gruppi, sì, delle neo avanguardie, precipiteranno. Un grande Vesuvio Party con Jim Morrison redivivo in licenza poetica li sommergerà. L'invito per chi ancora risponda ai segnali morse e alla resistenza con tutti i mezzi. Carta igienica, inchiostro simpatico, segnali di fumo con la carne alla brace. Ti ringrazio dell'averlo letto. È assolutamente un po' il mio pensiero. Dai, invece raccontami, leggimi quei pezzi che mi avevi mandato, che sono splendidi. Ne sceglierò un altro adesso, vedrò qui tutto il mio. Il primo della che hai sul MySpace. Il primo penso proprio che sia quello che ti ho letto, tra l'altro, però è quello? Te ne posso leggere un altro che diciamo così rientra in un discorso anche così personale del poeta e anche pseudopolitico, sì, che si intitola Il partito autocratico interstellare. Ecco quello lì. Ho gettato via tutti i suoi messaggi, gettati nell'ade elettronico. Ora contemplo il candore del mio mezzo telefonico, della mia casella di posta, la leggerezza che deriva dall'esercizio dell'oblio. Contro chi infetta e inquina il mio giardino, rialzo trinceri, divento marziale, dai talloni agli occhi faccio campagna elettorale per il partito autocratico interstellare. E dunque questo brano mi è venuto in mente appunto ragionando sull'isolamento, comunque la solitudine, che può essere a volte veramente qualcosa di positivo per liberarsi da una serie di disturbi del mondo che ci circonda. È vero. E perché allora le persone hanno così paura della solitudine? Dunque, perché hanno paura della solitudine? Mm-hmm. Forse ne hanno paura in senso assoluto, io mi auguro, nel senso che come dimensione spaventosa e perenne, ecco, però penso che la solitudine o l'oblio siano qualcosa che ci aiuta a fare pulizia di tutta una serie di cose. C'è un bellissimo libro che consiglio di Marco Auger che si intitola Le strade dell'oblio, che fa una prospettiva, mette in contrapposizione memoria e oblio. Allora, ricordare esiste perché esiste il dimenticare, e bisogna sapere, diciamo così, gestire le due cose in maniera opportuna. Molto interessante. Senti, mi mandi il titolo per email, così poi magari sì, una prossima volta. L'edizione diciamo francese, poi tradotta in italiano penso recentemente. Anche in francese va benissimo. Sì. Senti, tu lo parli molto bene, ho visto che ti sei tradotto infatti il libro di... Stavo leggendo qua sul tuo... Ho tradotto il libro, sì, di Anna Raffaella Farao dal francese in italiano. Infatti. Il che non è chiaramente, come tu saprai, come uguale al contrario, no, che comunque. Però diciamo che avendo frequentato, diciamo, più volte, avendo viaggiato anche molto in Francia, riesco a, diciamo così, a condurre, secondo me, in maniera opportuna una traduzione, che è un lavoro assolutamente difficile, che diciamo così mi accorgo sia meritorio. Insomma, io ho molta stima per i traduttori, ecco. Certo. È un lavoro molto duro, tra l'altro richiede molta attenzione per ogni singola parola. Quella bella poesia, Dromologia, l'hai tratta dal libro? Dunque, Dromologia l'ho tratta dal libro, penso proprio di sì. Ecco. Sì. Vuoi che la legga o la leggi tu? Volentieri. Questa poesia mi è venuta in mente facendo uno studio sulla velocità. Ecco. Filosofico sulla velocità. C'è un filosofo che si chiama Virilio che studia la velocità, che è molto noto per vari motivi. E allora, proprio per questo motivo, mi è venuta in mente questa poesia. Vuoi leggerla tu? Sì. Dromologia. Se sono magro e con ossa pungenti, è per rispondere alla velocità. Se mi succhio le labbra, è per desertificare le pozzanghere del corpo. Se evito i film, è per l'attrito e l'attesa della pellicola. Sono questi i lineamenti della mia dromologia, del mio veicolo urbano e della mia impermanenza. La mia conformazione corporea e aerodinamica contro il fato e la sua resistenza. Mi piace molto il fatto che ti identifichi con un veicolo urbano, cioè il corpo in fin dei conti si trova in città e deve seguire il ritmo veloce, quindi si deve in qualche modo proteggere, e si protegge probabilmente facendo come tu dici, magro con ossa pungenti, succhiandosi le labbra. È anche una forma, il nostro corpo, come penso la nostra vita, i nostri atti sono racchiusi sia dal libero arbitrio sia dal destino, per cui uno ha un corpo che è un destino corporeo in qualche modo. Interessante. Nessuno penso decida di essere bello, brutto, alto, magro, eccetera, cioè si ritrova in una situazione corporea che è anche un destino. E quindi il destino, appunto, questa è una lettura di un destino di velocità, chiaramente, no? Perché essendo più magro, uno è tendenzialmente anche più scattante, anche più possibilità di andare veloce. Ecco. Io avevo sentito un mio amico, che è anche un grande ipnotico, e diceva che in effetti i nostri corpi sono come astronavi. Noi siamo energia e ci ritroviamo dentro un corpo, perché il corpo è la parte visiva di noi. Se fossimo solo energia non ci potremmo identificare, quindi abbiamo questa astronave e con questa astronave noi ci muoviamo, viaggiamo, cresciamo, evolviamo. Alcuni evolvono più velocemente, altri hanno un percorso più difficile, più lento. E quindi la tela sonora, che è stata un'idea di Anna Maria Farabi, vuole essere proprio questo. Alla tela sonora noi invitiamo i poeti, ci rendiamo conto che ognuno ha il proprio passo e noi non vogliamo per niente, per nulla al mondo, accelerare o diminuire questo passo. Quindi a volte le puntate sono più spiritose, a volte sono più drammatiche, a volte sono più allegre, contemporanee, moderne, a volte assumono un tono più, se vogliamo, retro, perché la storia dei nostri poeti è la loro storia, quindi sono come astronavi che arrivano, giungono in questa tela e regalano delle emozioni, lasciano un piccolo pezzo di sé che poi noi provvediamo, grazie alla radio, a espandere intorno a noi per risvegliare un po' le coscienze delle persone, perché ci rendiamo conto che tanti sono un po' come anestetizzati e addormentati. Sì, e io vedevo anche che la favola per questi adulti bambini e viceversa, ambientata nello spazio vitale, parlo di Anna Raffaella Farà, tutto quello che si potrà dire è che la protagonista Bellatrix non sta mai al posto suo, come quindi se non accettasse la sua astronave. Andando in giro con la noce navicella, si appresta a compiere il suo 100° anno da bambino. Esatto, sì. Ecco, quindi eterna bambina o adulto? È un libro che mi ha interrogato molto anche nel corso della traduzione e tutto quanto. Sì, c'è questa condizione di questa bambina che non è che ha 100 anni, perché sul suo pianeta il sistema, diciamo così, di computo degli anni è diverso rispetto alla Terra, ma noi non sappiamo se sia giovane o vecchia in qualche modo, ma soprattutto c'è un percorso su questa astronave che lei fa per conoscere poi sempre più in qualche modo se stessa, il suo passato, il suo futuro in qualche modo. E penso che questo interroghi molto sull'aspetto temporale. Cioè, come ognuno di noi, in fondo, le dimensioni dello spazio-tempo, e questo si vede per la velocità, le dimensioni dello spazio-tempo sono delle dimensioni arbitrarie, ma questo non è che dire arbitrarie non è per dire delle cose semplicistiche, è perché lo sono, ma questo è dimostrato anche scientificamente, insomma sono diciamo delle misure che noi abbiamo tratto dalla nostra cultura e che comunque sono state poi messe in discussione da Einstein in qualche modo, che probabilmente lo saranno ancora in futuro. E quindi è assurdo, cioè, ritenere un individuo giovane o vecchio in base così a criteri culturali. Quindi certi libri portano semplicemente una visione, non dico fantastica, ma realistica nel profondo di quello che l'umanità è. In fin dei conti, l'astronave è che il nostro corpo diventa vecchio perché lo usiamo, però l'energia che c'è dentro è sempre quella. Sì, poi è sempre quella, sta a noi coltivarla, nel senso che magari ci sono, diciamo così, individui ventenni molto vecchi, individui novantenni molto giovani. Mm. Senti, il tempo, quindi, io sostengo che il tempo non esista. E ho avuto un'accesa discussione un mesetto fa, prima di Natale, con una persona che tra l'altro mi diceva che i massoni, la massoneria, uno appunto dei temi fondamentali è questo del tempo, che non esiste. Io questo non lo sapevo. Io invece per me il tempo non esiste, in quanto per me il tempo non è altro che movimento. Nel senso che quando una persona è, questo mi è già successo, quando una persona è, quando io sono immobile, non faccio nulla, mi sembra che il tempo non passi. Appena mi muovo e ho questa velocità, è come se ci fosse un'accelerazione. Allora mi domando, dal momento che non esiste un'accelerazione, perché abbiamo, come dire, le ore, no? Abbiamo i minuti, abbiamo i secondi che passano, abbiamo il sole, la luna, ci sono determinati passaggi durante il giorno. Allora mi sono domandata come mai io riesco a sentire questa accelerazione e invece se non faccio nulla non sento questa accelerazione. Quindi mi sono detta il tempo non esiste, sono io che do un valore al tempo. Ovviamente sì. Come allora... In un mondo in cui invece ti manca sempre il tempo, in cui vai alla ricerca quasi quasi di cose e azioni da fare per non pensare al tempo che passa e per avere sempre qualcosa, per non sentirti solo, per non sentirti anche inattivo, inutile, come invece o che cosa suggerire o che cosa dire per far sì che le persone si fermino un attimo e pensino che forse tutto questo darsi da fare, fin dei conti, non è altro che un voler accelerare, scappare, arrivare alla fine, perché costa troppo invece mettersi in gioco e vedere e trovare altre soluzioni, altre possibilità. Tu, come poeta, cosa ti senti di dire? Questa cosa del tempo, ma di questa necessità di dire che non si può pensare di andare più veloci se non si ha, se non ci si ferma, nel senso che la velocità esiste perché esiste l'immobilità o comunque esiste il suo contrario. Quindi anche se vi sono delle persone che vogliono accelerare, se ci sono delle persone che vogliono accelerare la propria vita, ne hanno diritto, io penso, spero in una direzione positiva, ma in ogni caso devono aver percepito la dimensione opposta. Io ritengo, sono uno di coloro che ritengono che i futuristi amassero così tanto la velocità proprio perché venivano da un mondo immobile, mm-hmm. che era quello della campagna italiana, insomma, mm-hmm. quando in Italia c'erano l'aratro, loro scrivono le aeropoesie, insomma, mm-hmm. che non era esattamente un matrimonio così evidente. Quindi io inviterei coloro che sono pressati a fermarsi per poter recuperare una velocità di qualità diversa. Si chiama più che altro un fattore di recuperare una sorta di qualità della velocità. Mm. Ha a che fare con la pubblicazione del testo Cosmagonia dei coccodrilli Lacoste? La velocità in qualche modo, non direttamente, però diciamo così, rientra in un aspetto commerciale della nostra vita. Adesso la sto cercando. Perché dici, si era al microfono e al tavolo del consiglio comunale con tanto di vessillo. Esatto. I coccodrilli ormai erano fuiti, esatto. dalla vasca da bagno e sorridevano agli astanti. Esatto, sì, è stato un momento, diciamo così, drammatico per coloro che c'erano, e, nel senso che ero a Pozzolo. Sì, al castello di Pozzolo. Esatto, ero lì perché avevamo uno stand, come Poesia Totale aveva uno stand e quindi mi occupavo, insomma, della manifestazione. E sono stato invitato a leggere, diciamo, una poesia, ho deciso appunto di leggere appunto I coccodrilli Lacoste, che era un progetto che era nato su una serie di cosmogonie, cioè una cosmogonia, cioè una nascita, che però era una nascita sofferente in qualche modo, no? È vista in qualche modo anche in senso ironico, e la mia lettura è stata quella della cosmogonia dei coccodrilli della costa, ma è stata una lettura molto veloce, perché comunque alcune letture che vengono fatte mie, ma anche dei molti altri, sono molto più rapide rispetto a una lettura tradizionale, e magari molto più impetuose, nel senso che poi c'era, e questo effetto, insomma, di dover leggere rapidamente sul tavolo del consiglio comunale mentre tutti erano un po' scossi, quando il tavolo si stava muovendo, era un po' così. Poi tra l'altro la responsabile penso della fiera mi ha chiamato poi dopo e mi ha detto: ah, bella la poesia, ha detto grazie, sì, ma se la leggevi un po' più piano. Non l'ho capita. No, non lo so, comunque diciamo. L'hai trovata? Sì, l'ho qui. Dai, leggila allora. Oggi la leggerò più lentamente perché non ne ho le possibilità vocali. Ah, peccato, comunque, peccato. Vorrei denunciare pubblicamente il caso di un buon numero di animali in via di estinzione, finiti in un giro di lavanderie clandestine, rivenduti per farne cinturine di castità, ceduti in cambio di una barretta di plutonio sugar free, scherzati ed umiliati a manetta, privati della giusta igiene orale, rimpiccioliti con detersivi per trasformare i capi della mamma in quelli di Puffetta, ora si trovano sulle magliette e meditano di entrare nel partito di Follini. Tali animali non hanno bisogno di presentazioni, sono i coccodrilli Lacoste. Essi alligano sulla superficie delle polo sine pretesa alcuna. Soggetti ad imitazioni vucumprà, hanno un sonno tormentato e giocano a spaventare i gemelli delle robe di cappa quando vanno a nanna nel loro gemellare letto nudi. E quindi diciamo così, questo è stato il testo. Rido, stavo ridendo, mi stavo contenendo. Perché mi ricordavo delle Lacoste quando ero piccola, mia mamma le comprava sempre. Ho letto in questa, ho pensato che questi coccodrilli fossero in qualche modo prigionieri. Sì, effettivamente. Senti Max, io ti devo salutare. Grazie della chiacchierata, è stato un piacere. Ecco, e metteremo, speriamo di riuscire a salvare la puntata sul podcast, non lo dico più forte. Perché così riesci poi a riascoltarti e di rimanere. Confidiamo in voi. Sì, confidiamo in Radio Alma e in Java, che è il nostro angelo custode. Senti, okay. Ti saluto e noi proseguiamo ancora alcuni minuti con un pezzo musicale. Bene. E ti salutiamo e ti ringraziamo. A te. Buon pomeriggio a tutti. Ciao. Ciao. Ciao. cari amici, avete ascoltato un pezzo, un brano tratto da Eternal Soul, Martiria del 2004. Ringraziamo ancora Marco Capelli. Il brano si intitola The Grey Outside, Almost a Serenade for Eva. E ringraziamo magari anche, dedichiamolo a Eva. Allora, con me qui, finalmente hanno fatto capolino la mia amica Deda che... Ciao! Ciao Deda, che poi sentirete nelle prossime puntate perché si occuperà della regia. E poi la sua amica? Paola. Ah. Collaboratrice in regia. Certo. Probabilmente. Speriamo. Ragazzi, voi state qua a Bruxelles per ancora poco tempo, per sempre? Io, Deda, rimarrò qua ancora un mese dopo un'esperienza magnifica che ho fatto qui in radio con un programma che ha 100 città e niente, con l'informativa la mattina, un'esperienza che mi porterò nel cuore per sempre a Ravenna e speriamo anche che di continuare su questa strada in Italia. Ottimo. Soprattutto le levatacce porterà nel cuore. Soprattutto le levatacce alle 6, dove si apre internet, si buttano giù le notizie dell'ultima ora e via in bicicletta 20 minuti per venire qua in radio e poi si parla 20 minuti e poi si ritorna a casa. Io torno a casa alle 9 quando gli altri escono di casa. Infatti, è la the revenge. Gli altri vanno a lavorare, tu vai a dormire. Sì, lei va a dormire. Quando Giulio si sveglia però. Come? Parliamo di Giulio. Il nostro regista. Perché vuoi parlare di Giulio? Perché magari lui alle 9 si sveglia invece. Alle 9 si sveglia? Io pensavo che tu avessi citato Giulio perché tu sai che c'è stato un corteggiamento da parte della nostra dell'ospite Paola. Non so nulla, anzi. Ah, pensavo che avessi delicatamente fatto questa frecciatina. No, Roberto, no, come volevo dire, Giava è un grande signore, no? No, perché noi a 100 città, in questo programma, che ha un taglio abbastanza ironico e divertente, abbiamo aperto una sorta di corteggiamento nei confronti del nostro regista che è Giulio. Che è carino almeno. È carino, occhi azzurri, biondo, insomma, è affascinante. Diciamo. Giava è più carino però. Giava sì. Giava è più carino. Giava è l'unico regista carino che io conosca di Radio Alma, adesso mi ammazzeranno tutti gli altri. Non ci sbilancio, io non mi sbilancio. Non ti sbilancio. No. Dice la Paola, che cosa ti dice? Io non so ancora per quanto rimarrò qui, sicuramente ancora per un po', sono qui da un annetto, lavoro. E poi magari ci viene ad aiutare in radio, no? Sì, magari sì. Ah, bene, sono contenta, tutte donne. E dunque, i saluti che vi avevo promesso all'inizio del programma sono per Anna Maria Farabi, che è la nostra musa, l'ideatrice di Bruxellando e poi della tela sonora. E Anna sta attraversando un momento particolare perché c'è una persona nella sua famiglia che non sta bene, quindi salutiamo Anna e questa persona che soffre, facciamo a entrambe i nostri migliori auguri per il 2009. Anna comunque continua a lavorare per la tela sonora perché prepara puntualmente una volta al mese la pagina, siamo arrivati già alla quarta pagina e la prossima, quindi quinta pagina, di cui non so ancora i contenuti, sarà sicuramente per una poetessa o un poeta di comunque importanza notevole e ringraziamo Anna per questo lavoro. Anna non ha ancora partecipato alla diretta qui con noi perché per lei la tela sonora è un lavoro che fa nascosto, non vuole apparire e si definisce un po' come la servant, la cameriera della tela sonora, cioè lei prepara i testi come se fosse un cuoco, una persona che prepara la cena, il pranzo e poi noi lo diamo in pasto ai nostri radioascoltatori, i quali speriamo che siano sempre fedeli, ci ascoltino. Ci farebbe piacere ricevere comunque, magari Giava può ricordare l'indirizzo email al quale si può scrivere. Giava, mi ricordi l'indirizzo email al quale scrivere? Per i nostri amici radioascoltatori che volessero... Beh, cosa devono scrivere? Ma se volessero scrivere poesie o commenti sulle nostre così trasmissioni. Beh, c'è radioalma@gmail.com. Perfetto, direi che è già più che sufficiente. Quindi, ecco, noi ci teniamo a far sì che sia una trasmissione interattiva. Per quanto appunto nel possibile, i partecipanti alla nostra emissione sono quasi tutti scrittori, poeti che vengono dall'Italia. ci sono ancora 2 minuti, direi di ringraziare ancora le persone che stanno lavorando per dare sempre più spazio alla radio. Sapete che da poco tempo abbiamo la giornata piena, quindi l'intera come dire, l'onda, no? Abbiamo la frequenza tutta per noi, ci stiamo espandendo, a volte ci sono piccoli problemini tecnici, però stiamo lavorando per voi. Una frase un po' retorica, ma è vero. Benissimo, io direi di salutare, non so se ci sono altre cose da dire. Devo salutare Vincenzo. Voi ragazze, Dede e Paola, volete fare i saluti e magari ai vostri amici in Italia? Io saluto il mio collega Giulio e i miei amici in Italia, li rivedrò tra poco, e quindi poi non mi stanno ascoltando in questo momento, ma ti ascolteranno sul podcast. Mi ascolteranno sul podcast, ok, esatto. quindi saluto anche i miei amici in Italia. Benissimo. Ciao. Invece Paola? Anch'io saluto Giulio e i miei amici in Italia e a Bruxelles. Insomma, Giulio, la prossima volta ti devo conoscere. te voglio vedere Giulio. Ok, allora ringraziamo ancora Anna Maria Farabi, Max Ponte, un saluto ancora Vincenzo D'Alessio, il nostro caro amico che ha perso un figlio e che è sempre molto molto generoso con Radio Alma. Ti ringraziamo di cuore, facciamo gli auguri a tutti e salutiamo Giava e la ospite a fianco, che si chiama Antonella, che non è voluta venire con noi qua. Cattiva, la prossima volta sarai qua. Ciao a tutti, ragazzi. Ciao.